Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, grazie di essere in nostra compagnia. Andiamo subito ai titoli del giorno, ma vorrei ringraziare Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Siamo pronti, partiamo. Malattie sessualmente trasmesse. Se le conosci, le eviti e proteggi la tua salute. Uomo stressato, uomo brizzolato. Consigli per recuperare il buon umore. Bene, oggi affrontiamo un tema delicato, parliamo di malattie sessualmente trasmesse. Un tempo si chiamavano malattie venere. Bene, secondo stime dell'OMS ogni anno vengono diagnosticati oltre 340 milioni di malattie sessualmente trasmesse in tutto il mondo. In questo numero non sono compresi i casi di AIDS e di queste 340 milioni 111 riguardano i ragazzi al di sotto dei 25 anni di età. Sono numeri impressionanti e la situazione è preoccupante, tanto che la stessa OMS ha deciso di includere la lotta alle malattie sessualmente trasmesse tra le assolute priorità di salute pubblica. Anche noi raccogliamo l'invito, vogliamo fare la nostra parte, dare il nostro contributo. Affronteremo questo tema insieme a tanti esperti, ma come sempre chiedo la vostra collaborazione. Lo chiedo ai genitori in ascolto, lo chiedo a chi genitore non è o non è ancora, ora per intervenire in qualità di ragazzo, di figlio, indipendentemente dall'età anagrafica. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde. 349 238 6666, il numero per inviare i messaggi. Credo che il compito di noi genitori, ma anche degli insegnanti, degli educatori, dei medici, ne ascolteremo in trasmissione, sia quello proprio di trovare i modi, le parole per educare i ragazzi alla cultura della salute, della vita, non certo a quella della malattia. Quindi è importante ai ragazzi insegnare a loro a vivere con gioia la propria sessualità, con delle scelte che salvaguardino la loro salute presente e futura. Abbiamo tanti ospiti, siamo quasi una tribù, uniamo le forze, come si dice. Naturalmente aspettiamo anche voi. Qua in studio con me è tornata a trovarci la dottoressa Ida Bianchessi, che è urologa, androloga, sessuologa clinica. Da anni è impegnata a fare educazione sessuale nelle scuole, risponde anche a un forum sul Corriere della Sera, che è molto frequentato anche dai giovani, ed è risponde come esperto della SIA, la Società Italiana di Andrologia, a quell'iniziativa di cui abbiamo parlato che si chiama Amare Senza Pensieri. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti. Dottoressa, subito una battuta. Nella sua carriera di medico lei ha incontrato generazioni di ragazzi. Sono diversi quelli di oggi rispetto a ieri. Si parla volentieri di educazione sessuale, o i ragazzi di oggi sono ancora, come quelli di ieri, un po' ingabbiati in tabù? Ma i tabù ci sono ancora, però i ragazzi sono sicuramente più disinvolti. Secondo me dipende da noi adulti, cioè se riusciamo a metterli in condizioni di farci domande, di parlare, insomma dipende dalla nostra disponibilità la loro richiesta di chiarimenti. Se si è disponibili, loro chiedono e sono molto attenti alle scelte. Allora io vorrei chiedere ai genitori in ascolto se parlano con i loro figli di educazione sessuale, se nella scuola che frequentano i loro figli ci sono stati dei corsi. Tra l'altro c'è una notizia che riprenderemo, che è uscita sui giornali, proprio sull'educazione sessuale in alcune scuole milanese. Ma voglio salutare il prossimo ospite, che è il professor Giorgio Vittori, presidente della SIGO. La SIGO è la Società Italiana di Ostetricia e Ginecologia, che anche quest'anno ha dato vita ad una campagna proprio rivolta ai giovani, direi dai giovani in partenza per le vacanze estive. Professor Vittori, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ospiti in studio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Molti amori nascono in vacanza, per questo proprio avete deciso di accompagnare i ragazzi, di guidarli a comportamenti consapevoli. Professore. Eh sì, assolutamente sì. Abbiamo fatto una campagna che abbiamo chiamato volutamente Travel Sex, proprio per sensibilizzare i ragazzi in questo momento particolare che è legato alle vacanze, alle nuove opportunità, all'estate, alle nuove conoscenze, e quindi dare loro un breviario di informazioni per aiutarli. Allora, io ho pensato che però al nostro tavolo non potevano mancare i diretti interessati, i ragazzi quindi. Io ne ho scelto due che a me piacciono in modo particolare. Sono bravi, sono belli, sono giovani, sono preparati, sono Emanuele Bosi e Mary Petruolo, protagonisti del film Questo piccolo grande amore, che è stato proprio un grandissimo successo e che ripercorre proprio la storia del celebre brano di Baglioni, che ha fatto innamorare generazioni di ragazzi. E la dottoressa Bianchessi mi guarda, magari anche qualcuno di noi. Allora saluto subito Mary. Ciao Mary, grazie per essere con noi. Ciao, buongiorno a tutti e grazie a voi. Saluto Emanuele. Emanuele, grazie. Ciao, buongiorno. Allora, buongiorno a tutti. Senti che, che belle voci che hanno questi giovani attori. Emanuele, innamorarsi con il cuore, perché le storie d'amore, noi ci auguriamo che i nostri figli abbiano delle storie d'amore vere, coinvolgenti, sì, ma continuando ad usare la testa. Però vengo da te in qualità di mamma. Forse farei come mamma, avrei più facilità a parlare con me, ma faccio la mamma di un ragazzo giovane. Tu sai che spesso quando iniziano i genitori a fare queste raccomandazioni la comunicazione si chiude. Cosa ti preoccupi? Si rischia di fare il bacchettone? Non so come sia andata a te, che cosa ne pensi? Mi piacerebbe saperlo. Beh sì, perché c'è comunque molto tabù ancora purtroppo nelle famiglie di questo argomento, quindi magari si cerca di essere un po' evasivi, no? E quindi magari il figlio preferisce insomma non parlare di queste cose, perché probabilmente non è proprio educato a parlarne, e poi questa scarsa comunicazione poi può causare questi problemi. Si preferisce parlare con i ragazzi, coi coetanei, o andare a cercare notizie su internet? Sì, credo proprio di sì, ma anche a me è capitato così, cioè magari spesso preferivo documentarmi per qualsiasi cosa, magari documentarmi con gli amici oppure su internet, magari evitare il confronto diretto con i genitori. Senti, perché non siamo proprio ancora preparati a questo. Su questo bisogna lavorare. La dottoressa Bianchessi voleva intervenire, ma lui, Emanuele, mi è piaciuto perché mi hai detto documentato. Invece i dati, il professor Vittori può confermarle, ci fotografano una situazione un po' preoccupante, ragazzi poco informati. Professor Vittori, è così? Assolutamente sì, l'abbiamo visto in più riprese, l'abbiamo visto facendo un'intervista sulle spiagge un anno e mezzo fa, abbiamo intervistato oltre 1000 ragazzi e abbiamo chiesto loro che tipo di informazione avessero sull'educazione sessuale. I risultati sono stati preoccupanti, il primo rapporto è non protetto in nessuna maniera nel 50% dei casi, ma la cosa più preoccupante è che il secondo rapporto continua ad essere non protetto. Dottoressa Bianchessi, le passo la palla. Un escamotage per un genitore, perché una mano ai genitori bisogna anche darla, sì, e non solo ai ragazzi, è quella di dare al figlio il nome di un conoscente, di un amico, del figlio, di cui il figlio si fidi, e anche il genitore, con cui magari per il figlio è più facile parlare che col proprio genitore. Può essere il cognato, la sorella, la zia giovane. Può essere tutto questo, oppure un medico. Il medico di base potrebbe essere. Certo. Mary, Emanuele ci ha detto documentato. Alcuni ragazzi si documentano. Non vorrei appunto buttare, i dati sono preoccupanti, ma salviamo anche il buono, sperando che questi ragazzi che amano documentarsi o occuparsi quindi di una sessualità consapevole diventino in qualche modo contagiosi. Mary, le ragazze però rispetto ai ragazzi, forse perché si confrontano, hanno anche un inizio, no? Il ciclo mestruale le fa in qualche modo venire a contatto con il diventare donna, e quindi scattano alcuni pensieri, alcune precauzioni. Le ragazze sono di solito un pochino più informate, anche se magari poi le informazioni non sono complete. Tu che cosa pensi di questi dati che il professor Vittori sottolineava, e soprattutto sulla necessità anche di aiutare genitori e ragazzi a evitare, e sono evitabili, le malattie sessualmente trasmesse, che ricordiamo sono dei problemi seri per la salute presente e futura, perché si rischia anche di non poter avere figli un domani. Mary? Beh, sicuramente sono dei dati preoccupanti. Per quanto riguarda la mia esperienza personale e comunque anche in relazione alle mie amiche, diciamo che la ragazza tende sì ad informarsi un po' di più, però poi c'è comunque la timidezza di fondo, la vergogna che quindi non ti permette, che ne so, di andare nei consultori che sono troppo poco conosciuti, e magari ai consultori si ricorre soltanto nel momento proprio di necessità acuta, quando, che ne so, c'è bisogno della pillola del giorno dopo, ma non si pensa mai a, che ne so, a frequentare magari anche così liberamente dei corsi per informarsi, per sapere. Anche la stessa pillola, non è facile trovare una ragazza che liberamente decide di andare da uno ginecologo, di fare una visita normale, magari di farsela prescrivere, perché c'è anche la vergogna, no? Del dover prendere magari la pillola davanti agli altri, e cosa possono pensare, cosa possono dire. Quindi questo secondo me dipende anche molto dal rapporto che c'è in famiglia rispetto alla sessualità, perché se il genitore riesce a tranquillizzarti, nonostante questo sia un argomento molto complicato e delicato anche sicuramente per il genitore. Sì, perché coinvolge, perché parlando di sessualità si coinvolge l'intera persona. Professor Vittori, Mary ha sottolineato, ci dà degli spunti molto interessanti. Riguarda, noi abbiamo un consumo di pillole nel nostro paese che è più tra i più bassi d'Europa, giusto? È assolutamente vero. Poi io volevo commentare su quello che ha detto sia Mary che Emanuele, veramente mi hanno colpito. Allora, il consumo di contraccettivi orali è inferiore al 20%, quando la media europea, nord europea, è intorno al 45%. Ma le cose che mi hanno colpito di Mary e di Emanuele, Emanuele che mi dice che il suo punto di riferimento per l'informazione sono gli amici, Maria che mi parla della timidezza delle ragazze, e diciamo la domanda che viene fuori è proprio chi informa e come si informa, perché farsi prescrivere la pillola non significa solamente diciamo avere una informazione relativamente alla contraccezione, ma manca proprio tutto il resto, manca l'informazione alla salute riproduttiva, l'educazione sessuale e proprio l'informazione integrata. Io credo però, Emanuele, ad esempio, per noi genitori, quindi i genitori di Emanuele e di Mary potrebbero essere uomini e donne di 50 anni, non siamo stati preparati, non abbiamo ricevuto un'educazione sessuale. Tante volte siamo proprio noi genitori come anelli deboli della catena. Però oggi i ragazzi possono, aggiornandosi, e abbiamo tante campagne che aiutano a farlo, a capire che rischi corrono con dei comportamenti non consapevoli. Secondo te, Emanuele, è passato, sta passando questo concetto? Sì, secondo me sì. Io per esempio mi ricordo, ho fatto educazione sessuale a scuola e già comunque sì, un po' si muovevano certe dinamiche di informazione, non lo so, io credo di averle recepite anche, magari non sono documentato, non lo so, al 100%, perché probabilmente c'è sempre qualcosa... Meno male, no? Sicuramente c'è sempre qualcosa da sapere in più, sì, certo, quindi però io sento di aver recepito comunque qualcosa, probabilmente forse perché, non lo so, nella mia scuola si utilizzava molto questo tipo di insegnamento, di istruzione, perché io mi ricordo l'ho fatto ogni anno, venivano anche le psicologhe, le sessuologhe proprio. Ecco, quindi Emanuele, dottoressa Bianchessi, è un esempio di un ragazzo che ha potuto, no, seguire un corso nella sua scuola e dice, bene, a qualcosa è servito. Rispondiamo a Daniel da Brescia che ci scrive: ma a quale età è giusto iniziare a parlare di sesso ai propri bambini? Dottoressa Bianchessi. Ma io prima di tutto vorrei che si parlasse di sesso ai genitori dei bambini dell'asilo nido. Sì. Trovo molto importante la campagna che sta facendo il professor Vittori, e mi complimento, perché credo che la sensibilizzazione ai ragazzi sia essenziale. Però se questi poi non trovano a casa il parallelismo con le informazioni esterne, hanno poi dei conflitti. Quindi, professor Vittori, questo è anche un'occasione per unire, cioè per far sì che magari alcuni genitori, è difficile insomma parlare di attività sessuale ai figli, tante volte non abbiamo le parole, i modi. Ecco, proprio la vostra campagna in un certo senso unisce genitori e figli, è vero? Assolutamente sì, questo è proprio uno degli obiettivi più o meno evidenti. Noi abbiamo fatto questo librettino utilizzando il linguaggio che i giovani utilizzano adesso, proprio travel sex, ci pare una bella sintesi, e proprio per avere una specie di piccolo calepino, un piccolo breviariuccio, sì, che può essere anche un'occasione per parlare ai genitori. Perché? Le cose che abbiamo messo dentro sono delle cose molto semplici, messaggi molto chiari, molto banali, e sono anche l'opportunità per parlare anche con i genitori, nel senso che mi pare che possa essere anche una scusa per cominciare a parlare, certo, di queste cose con i genitori. Tra l'altro i dati dicono, ma confermatemelo voi che siete degli addetti ai lavori, che i ragazzi che sono informati ed educati, cioè hanno ricevuto quindi informazioni sull'attività sessuale, posticipano il loro debutto sessuale, in modo quindi aspettano, non si buttano. Professor Vittori, è vero? È assolutamente vero. Perché tante volte arrivano già qualche messaggio. Quando si parla di educazione sessuale, sembra che uno voglia in qualche modo convincere i figli a buttarsi. Questa non vuole essere una trasmissione in cui dice ragazzi, liberatevi, sesso libero, eccetera. Vuol dire ragazzi, genitori dei ragazzi, e io mi metto tra di loro, aiutiamo i nostri figli ad avere delle precauzioni, a capire che l'attività sessuale è buona, bella, ma deve essere soprattutto non rischiosa. Mary, ho bisogno di una tua battuta come ragazza, perché è importante che io vi ho voluto e vi ringrazio molto, perché siete un po' rappresentanti di quella parte di ragazzi che si impegnano, si informano e su cui noi investiamo. Ecco, per te che educazione hai ricevuto dai tuoi genitori? Con tua mamma che rapporto hai avuto? Ti ha aiutato? Ma devo dire che io sono innanzitutto meridionale, quindi giù c'è una convinzione particolare, ci sono tabù su tabù, però sono stata fortunata perché io ho una sorella più grande, quindi diciamo mia madre ha dovuto affrontare questa cosa prima con lei, quindi io avevo un po' la strada spianata, anche se devo dire in certi momenti è come se lei fosse tra virgolette scappata dalla situazione, e poi sono stata io quando ho deciso di prendere la cosa in mano e quindi ho iniziato proprio in prima persona ad informarmi, ad andare a parlare proprio con i dottori e così via, l'ho messa un po' con le spalle al muro e le ho detto adesso parliamo, adesso perché io devo capire. Anita ci chiama da Roma, buongiorno Anita. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. In realtà da Latina, ho detto Roma per far prima, però in realtà... Va bene, da Latina, va bene. Allora, io dunque vorrei forse puntualizzare una cosa, ma credo che la dottoressa prima di me abbia già aperto un po' un viatico in questo senso, cioè riguardo l'educazione sessuale, mi piacerebbe che con i ragazzi, quando questa si fa, non investa soltanto l'attività sessuale, ma il linguaggio sessuale, cioè voglio dire, alla fine il sesso, secondo me, deve essere, è importante che ai ragazzi venga trasmesso questo messaggio, è una parte del nostro, è un aspetto del nostro comunicare, del nostro modo di trasmettere sentimenti, del nostro modo di trasmettere, non solo sentimenti, perché non è detto che poi sia sempre associato all'amore, si spera che sia così, ma insomma comunque ai sentimenti, al sentire, certo, al comunicare, al parlare con l'altro individuo. E lasciato e relegato a una semplice attività ginnica, e che quindi va comunque protetto in ogni caso, quindi l'educazione sessuale in quel senso assolutamente, però che sia anche coadiuvata così da parte dei docenti, da un riuscire a trasmettere ai ragazzi, certo, anche i valori legati a questa attività. Guardi Anita, siamo d'accordo, anche la dottoressa Bianchessi vedo che annuisce. Sono perfettamente d'accordo, sarebbe schizofrenico dividere, tagliare la testa e dividerla dal corpo, quindi dividere la psiche, i sentimenti, i valori che abbiamo inculcato ai nostri ragazzi e far agire il corpo del tutto indipendentemente, come se fosse un input solo dettato dagli ormoni. Io so che Emanuele e Maria devono lasciarci perché tornano a lavorare. Adesso hanno fatto i ragazzi, ma adesso vanno a fare gli attori. Emanuele, cosa stai facendo? Stai girando un film? Scusa, ormai mi sono sentita, ormai mi faccio un po' i fatti tuoi. Sono diventata una mamma adottiva. Cosa stai facendo che ti controlliamo? Sto girando un film con, per la regia di Carlo Manzina, che si intitola La vita è una cosa meravigliosa. Ecco, vedi, La vita è una cosa meravigliosa. E quando uscirà, Emanuele? Ma la data di uscita è probabilmente prima di Natale, però forse anche dopo, non si sa ancora. Non si è sa. Ancora un po' indecisa. Ma tornerai qua per raccontarcelo. Invece Mary, che cosa stai facendo? Io lo so che cosa stai facendo, sei super impegnata, una nuova serie di... Canale 5, che è RIS, che quest'anno si trasferisce a Roma, diventa appunto RIS Roma, quindi sto insomma imparando a sparare con la pistola e a fare i rilievi e tutto quello che concerne questo bellissimo lavoro. Un bacio a Mary Petruola e Emanuele Bosi, che sono venuti, hanno fatto i nostri ragazzi. Spero che torniate a trovarci presto, perché abbiamo bisogno delle vostre impressioni. Abbiamo bisogno proprio di voi per cercare di trovare una comunicazione che accompagni genitori e figli. Grazie a Emanuele, un bacio a Mary, grazie. Grazie a voi, auguri. Belli ciao. E bravi. Siamo tornati insieme, parliamo di malattie sessualmente trasmesse, ne parliamo perché i numeri sono preoccupanti, sono in aumento, la fascia a rischio sono sicuramente i ragazzi, ma sono in aumento anche tra gli adulti. Quindi, dato che per educare bisogna sapere, impariamo noi adulti, magari ci sono dei concetti, delle informazioni che possono essere utili anche noi per trasmetterle ai nostri figli. Insieme a noi abbiamo il professor Giorgio Vittori, che è presidente della SIGO, la Società Italiana di Ginecologia Ostetricia. Abbiamo qua in studio la dottoressa Ida Bianchessi, urologa, androloga, sessuologa clinica. Tra poco ci raggiungerà anche Alberto Pellai. Non poteva mancare il mio inquilino di questa casa, non è un albergo, quando parliamo di rapporti tra genitori e figli. Adesso andiamo però a sentire le notizie che sono state commentate per noi dal professor Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo, e torniamo subito dopo insieme. GR Salute. I capelli stressati si imbiancano prima. Un gruppo di ricercatori giapponesi ha dimostrato che la perdita di colore dei capelli è il risultato di danno al DNA delle cellule staminali dei melanociti, le cellule che sono presenti nei follicoli dei peli. Queste cellule staminali generano a loro volta i melanociti maturi, quelli che producono la melanina, la sostanza che dà il colore scuro ai tessuti e anche ai capelli. Senza melanina i capelli si scolorano, diventano grigi e poi bianchi. In questi esperimenti topi sono stati sottoposti a radiazioni ionizzate, una forma di stress che danneggia il DNA delle cellule staminali del follicolo pilifero. Niente staminali, niente melanociti maturi, niente melanina. I topi sono diventati bianchi. Altri tipi di stress possono essere prodotti da sostanze chimiche presenti nell'ambiente oppure dai raggi ultravioletti. Meno si dorme e più è facile diventare ipertesi. Chi l'avrebbe detto che c'è un rapporto tra quanto si dorme e i livelli di pressione del sangue? È il risultato di una ricerca fatta in America in persone di mezza età. A quasi 600 persone è stata misurata la pressione arteriosa per un certo periodo e poi gli hanno chiesto di dichiarare quante ore dormivano per notte. Si è visto che in generale queste persone dormivano in media 6 ore e anche che c'era un rapporto tra il numero di ore di sonno e i valori della pressione arteriosa. La conclusione è che meno si dorme, più è facile avere la pressione alta. In questo studio si è anche visto che gli uomini dormono meno delle donne e sono più a rischio di avere la pressione alta. Adesso si dovrebbe riuscire a capire se migliorando la qualità e aumentando la durata del sonno si possa ridurre il rischio di sviluppare ipertensione. Alberto Pellai è arrivato. Alberto? Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Ciao Alberto, grazie per essere con noi. Andiamo a Tiziano che ci chiama da Milano. Buongiorno Tiziano, l'ho fatta attendere. Grazie per l'occhio, buongiorno. Buongiorno, ci racconti Tiziano. Ma meno male, diciamo, che è stata risposta anche alla telefonata precedente alla mia, no? Proprio legato all'aspetto dell'educazione sessuale. Sì. Secondo me bisogna anche fare una educazione all'affettività più che l'educazione sessuale. Certo, bisogna fare l'uno e l'altro. Infatti, come prima cosa. Seconda è proprio sul parlare in famiglia di questi argomenti. Non si può, se non c'è un rapporto con i figli a un certo punto, quando hanno 17-18 anni, anche prima, intavolare il discorso sulla sessualità. Quindi è tutto legato anche a una certa sì. rapporto che c'è. Che Tiziano, io sono d'accordo con lei. Sono molto d'accordo con lei che bisogna iniziare prima, anzi sono, come diceva la dottoressa Bianchessi, iniziamo proprio dai genitori dei bambini che vanno al nido, e questo è un pensiero di Alberto Pellaia, anche che ha scritto libri su questo. Però non è mai troppo tardi, cioè ho una figlia che ha 17, 18, 20 anni, 22, adesso io non, cioè rendiamole maggiorenni, e che decide, io capisco che qualcosa lei sta cambiando, sta vivendo una storia d'amore, voglio io come genitore devo in qualche modo rendermi in grado di dirle qualche cosa. Se non l'ho fatto, informarmi, trovare le parole, parlare con qualcuno che mi aiuti a farlo. Non dobbiamo dire noi genitori ormai non l'ho fatto, non trovo più le parole, perché professor Vittori, mi confermi lei, le malattie sessualmente trasmesse sono in aumento. Assolutamente sì. Quindi se mi permette, non solo sono in aumento, e questo è un numero che noi possiamo considerare estraneo a noi stessi, in realtà il fatto che siano in aumento ha un rilievo importante con il futuro della nostra vita, in particolar modo con la fascia di persone che più ci interessa in questo momento, che sono gli adolescenti. Certo. Se gli adolescenti affrontano la vita sessuale senza il manuale di istruzioni per l'uso, possono incorrere in qualche problema. In qualche problema nel presente e nel futuro, che può compromettere proprio la loro salute futura, vero professore? Assolutamente sì. Allora, partiamo da un paio di affermazioni che sono: uno, i ragazzi si espongono ai primi rapporti sessuali in maniera poco consapevole, come abbiamo sentito da tutti gli interventi precedenti. Sì. La conseguenza di questo non è solamente, come dire, una dissociazione tra l'affettività e il sesso, che questo è già un problema, ma direi non esula da questa comunicazione di oggi, di questo incontro di oggi, ma è assolutamente importante. Parliamo di cose un pochettino più banali. Due problemi fondamentali. L'esporsi ai rapporti sessuali in maniera inconsapevole, senza informazione, porta due ordini di problemi, e sono il problema delle gravidanze indesiderate in giovane età, sì, che è un vero e proprio disastro, e quindi da genitori è importantissimo tenerne conto, e poi questo problema delle malattie sessualmente trasmesse. Ora, avere una malattia sessualmente trasmessa, importante o non importante, cosa intendo? Dall'HIV, cioè dall'AIDS, non voglio terrorizzare nessuno, voglio dare solo informazioni, sì, oppure delle malattie più leggere, apparentemente più leggere, cioè meno sintomatiche, meno capaci di dare danni visibili, per esempio cito per tutti la clamidia, uno può avere una malattia sessualmente trasmessa come la clamidia, poco importante per la qualità della vita nella fase adolescenziale, poi si ritrova con l'impossibilità di concepire quando poi desidera mettere in moto il motore della fertilità a 35 anni, come succede per le donne italiane. Questo è il problema importante, avere le istruzioni per sapere come pianificare la propria vita riproduttiva. Dottoressa Bianchessi, volevo chiedere a lei, di solito noi si pensa, e anche ritorna nei nostri messaggi, che a rimetterci di più con le malattie sessualmente trasmesse sia la salute della donna, anche il maschio rischia. Sicuramente la fertilità è spessissimo compromessa sia da un danno diretto, sia dalla malattia stessa, sia da un danno indiretto e anche iatrogeno dei farmaci che bisogna prendere per curarsi, sia per le cicatrici, per cui molto spesso abbiamo delle vie spermatiche ostruite da cicatrici di pregresse malattie sessualmente trasmesse guarite. Alberto, allora io vorrei che tu riunissi le tue competenze di medico, di esperto in relazione tra genitori e figli e come padre. Hai un ragazzo, parlo di un ragazzo e poi verremo anche alla ragazza, che sta per partire. Gli consigliamo di consultare appunto Travel Sex sicuramente. Ma che cosa gli dici? Io vorrei che tu ti calassi nel ruolo di quel genitore che per una serie di ragioni, non vogliamo indagare, fino ad ora ha cercato di scantonare un po' il discorso. Alberto. Ma io direi che ci sono tre parole chiave che possiamo comunicare ai nostri figli quando parliamo con loro di sessualità e soprattutto immaginando che siano proprio lì a un passo dall'entrare nella sessualità agita. La prima parola è rispetto, la seconda parola, se possibile, è affetto, la terza parola è protetto. Rispetto perché è fondamentale che la sessualità, quando viene scambiata proprio in una relazione tra due persone, sia sempre rispettosa del volere e del sentire, proprio e altrui. E questo non è dato per scontato, davvero tra i ragazzi, tra gli adolescenti, spesso qualcuno viene forzato alla sessualità con la scusa che siamo insieme da un mese, per esempio, dobbiamo farlo, e invece è fondamentale proprio che si crei un dialogo intorno alla sintonia, quando è giusto il momento per me, quando siamo realmente pronti. Questo automaticamente porta al secondo aspetto, che è quello dell'affetto, cioè la miglior modalità per fare della sessualità una risorsa per la propria vita è farla vivere dentro a una relazione che genera emozione, mentre troppe volte l'idea è quella di avere una sessualità sensazionale, cioè che dà sensazioni, che eccita, ma che in realtà è totalmente slegata dal contesto relazionale. La terza parola è comunque sessualità protetta, cioè soltanto dentro un modello di responsabilità la cosa comunque non fa male, nel senso che può essere che non fa bene una sessualità che viene in qualche modo vissuta in modo estemporaneo, in modo sensazionalistico, ma è fondamentale che non faccia male. Questo significa che bisogna proteggerla, e qua è fondamentale capire se i propri figli hanno le informazioni sufficienti per proteggere un eventuale rapporto sessuale che decidono di avere, e quindi con loro si deve parlare sia di contraccezione che di protezione delle malattie a trasmissione sessuale, come avete fatto voi. Alberto, rispetto, affetto, protetto, RAP. Il professor Vittori invece ha coniato PIC, protezione, informazione e contraccezione. Sono incinta. Cosa? Ma è proprio vero? Sì. Porca di quella zozza! Non è una lavagnetta magica, questo è uno scarabocchio che non si può cancellare. È meglio che lo dici e basta. Sono incinta. Chi è il padre? Holly Bleaker. Non mi pareva il tipo. Dal film Juno, tante volte quando parliamo di ragazze, parliamo di gravidanze indesiderate, sembra che questo sia uno dei messaggi che devono passare i genitori, ma non è solamente questo. Si nota, Alberto, da questo film, l'abbiamo scelto insieme proprio per sottolineare un aspetto di estrema leggerezza. Alberto. Sì, purtroppo, proprio come succede in Juno, tantissime volte i ragazzi entrano proprio in modo totalmente superficiale, non preparato nella sessualità agita, ed è per questo che anch'io richiamo proprio il messaggio che avete rinforzato tanto voi nella trasmissione, cioè l'educazione sessuale è un progetto che deve accompagnare i nostri figli fin dall'età più precoce. Lancerei questa domanda e questa sfida ai genitori all'ascolto: voi mamme e papà vi siete mai messi una volta intorno a un tavolo per discutere qual è il progetto di educazione sessuale che abbiamo per i nostri figli? Vi siete mai domandati che cosa volete davvero comunicare loro, quali sono i contenuti della vostra comunicazione? E ci tengo a sottolineare che se le ragazze, avendo il menarca, vengono spesso preparate dalle mamme, quindi riescono ad avere qualche conversazione in famiglia e non arrivano più sprovvedute come le ragazze di 20 o 30 anni fa al loro primo ciclo, i ragazzi nel 90% dei casi arrivano allo spermarca senza aver mai avuto una conversazione, un'informazione di nessun tipo da parte degli adulti di riferimento. Questo ci deve far riflettere sullo straordinario bisogno che sia maschi che femmine hanno di educazione sessuale, aggiungo un ultimo pezzo, che poi i ragazzi in particolare tra gli 11 e i 14 anni, non avendo mai usufruito di una buona educazione sessuale, vanno a diseducarsi sessualmente nei meandri di internet e quindi vanno a esplorare una sessualità molto pornografica, molto disorientante, che li confonde ancora di più. 824 0024, se volete intervenire. Andiamo a Napoli, ci aspetta Ciro, buongiorno. Sì, buongiorno. Chiamo da Milano comunque. Ah, va problema. Bene. Qua oggi sbagliamo città, ma l'importante è che ci siamo. Ciro, buongiorno allora. Ci racconti? Volevo tornare a quello che è la mancanza di informazione nei confronti dei bambini. Io ho una bimba di 9 anni. In questo periodo potrei specificare che per lei è un periodo di preadolescenza. Fa continuamente domande sul sesso e così su come nascono i bambini, sì. Dove noi comunque cerchiamo di rispondere con termini semplici che lei riesce a capire. Per contro, tutte le sue compagne, i suoi compagni della scuola, del parchetto, non ricevono queste informazioni. Sì. E quindi c'è questo appunto sbilanciamento nel fatto che lei è semi-informata, mentre i suoi compagni sono all'oscuro di tutto. Alberto, una battuta per Ciro e poi andiamo a Giuseppe da Palermo. Ma direi che Ciro sta facendo la cosa giusta, cioè quando i ragazzi e le ragazze stanno per entrare in preadolescenza sono davvero pieni di domande e soprattutto hanno segnali interni che partono dal loro corpo e che li spingono nella direzione di approfondire il tema della sessualità. Sarebbe fondamentale che il progetto educativo della famiglia incontrasse anche un progetto educativo a scuola che sinergizza i messaggi e soprattutto che rende l'intero gruppo competente su quell'area di conoscenze e di informazioni che sono necessarie in quel momento del ciclo di vita. Giuseppe ci chiama da Palermo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta e buongiorno ai professori. Dunque io premetto che non sono un papà, sono un genitore, sì. E quindi parlo in prima persona. Sì. Volevo sapere, per quanto riguarda le malattie ureoplasma e microplasma, sì. Queste malattie sono possono essere pericolose, possono essere come soprattutto possono essere guarite. Allora, grazie Giuseppe. Dottoressa Bianchessi, di che malattie sta parlando Giuseppe? Ureoplasma? Sta parlando di batteri che prima il professor Vittori ha parlato di clamidia e sono comunque batteri rilevabili nelle culture delle urine, dello sperma, del secreto prostatico, del secreto uretrale, sto parlando ovviamente dei maschi in questo sì. caso, e che possono essere trattate molto bene con degli antibiotici. Quello che va ricordato e che raramente noi stessi diciamo, noi urologi, noi andrologi, e che invece dovremmo dire molto più spesso, è che quando un uomo ha un'uretrite o una prostatite deve comunque usare il preservativo in modo da non infettare e depositare comunque del materiale infetto nella vagina della partner. Professor Vittori, volevo dedicare gli ultimi minuti della trasmissione a mandare proprio messaggi che siano chiari per i genitori da trasferire ai figli, ma comunque secondo me ne abbiamo tutti bisogno. Quando parliamo di malattie sessualmente trasmesse, che sono diverse, sono tante, si differenziano per contagiosità, decorso, possibilità di cura, parliamo di malattie che si trasmettono attraverso il contatto sessuale. Che cosa, ecco, quali sono i comportamenti a rischio? Solo il contatto sessuale, professore? Normalmente sono tutti i contatti sessuali, compreso anche il sesso orale o appunto le manipolazioni, anche senza la cosiddetta penetrazione tra pene e vagina. Quindi anche il sesso orale può essere coinvolto in questo genere di comportamenti a rischio. Io volevo sensibilizzare sensibilizzare su due o tre cose. Sì, uno. Abbiamo un minuto. Io sono proprio contenta che lei mandi questi messaggi a chiusura che tirano un po' le somme della nostra trasmissione. Parta, abbiamo un minuto. Allora, le malattie sessualmente trasmesse sono diverse, non sono solamente clamidia oppure l'AIDS o gonorrea o sifilide, eccetera, sono diverse. Esprimono un comportamento a rischio e che esprime disinformazione. E quindi io chiedo a tutti di aiutarci a fare sensibilizzazione in questa fascia d'età, che è quella adolescenziale, dove, come abbiamo sentito, c'è pochissima informazione. Il secondo messaggio che volevo mandare era questo. È vero che le malattie sessualmente trasmesse si possono anche guarire, però questo avviene solamente se vengono prese in tempo, altrimenti possono dare dei danni irreversibili, come per esempio la chiusura delle tube. E l'ultimo messaggio che volevo mandare era quello proprio, comunicazione padri-figli, soprattutto i padri con i figli. Le mamme con le figlie. Hanno la migliore possibile, efficacia, sì. Ma soprattutto anche per un problema di comunicazione. Le malattie sessualmente trasmesse esprimono un comportamento a rischio, che è di disinformazione oppure attitudine a perseguirlo, e questo può essere veramente un problema, per cui protezione sicuramente attraverso il profilattico dalle malattie sessualmente trasmesse, e questo è assolutamente utile. Contraccezione, specie nella fascia adolescenziale, per proteggere dalle gravidanze indesiderate in quella fascia, che sono un problema, un disastro. Serio? Certo. Familiare, ma soprattutto informazione come condizionamento, tutto il resto, cioè come condizionante una buona qualità anche della sessualità affettiva, della comprensione di tutte quelle che sono le possibilità evolutive. Professor Vittori, io la ringrazio, saluto la dottoressa Bianchese e Alberto Pellai, ci torneremo. Avevamo pensato un aiuto dalla nostra psicologa psicoterapeuta Fabia Schoss per le persone che si erano alzate con il piede storto, ve lo daremo, faremo un collegamento domani, quindi domani potete anche alzarvi col piede storto, che vi faremo tornare noi il buon umore. A domani, quindi, dopo il GR delle 11. Grazie per essere stati con noi.